È una trama che non è facile raccontarla senza spoilerare, diciamo, rivelare troppo, perché sono in realtà diverse trame, no? che si intrecciano, che si compattano molto, molto bene fra loro. Sono diverse storie che ruotano, si catalizzano intorno alla protagonista del romanzo, che si chiama Faf, che è una donna, diciamo, che viene colta all'inizio della storia, il momento della sua vita, lui è insegnante, preside di un liceo femminile islamico nei dintorni della cintura di Chicago, viene colta in un momento in cui sta per succedere l'evento scatenante poi di tutta la vicenda. Dalla prima pagina sono chiare, si presentano subito le tematiche, le piste fondamentali del romanzo. C'è un'apertura, una finestra sulla cultura islamica in questa scuola femminile, un personaggio che lei è una donna di una quarantina d'anni che si presenta subito come una persona dallo sguardo aperto, e su questa parola sguardo poi torno volentieri perché è una delle parole chiave secondo me di tutta quanta la costruzione narrativa, e che si confronta con un genitore al telefono che pone subito delle questioni sulla opportunità o meno di leggere un libro, Il Grande Gatsby, ponendolo subito. Una delle prime parole del romanzo è haram, che è il contrario di halal, cioè illecito, non va bene, e lei immediatamente risponde con pacatezza, con pazienza, mettendo subito in chiaro, insomma, l'educazione religiosa è una cosa, la cultura, la letteratura, la formazione delle ragazze è un'altra. E quindi già identifichiamo subito alcune fondamentali del romanzo. E poco dopo la vediamo che si avvicina a quello che è l'incubo di ogni insegnante, lo school shooting, la sparatoria nella scuola. Questo noi non lo sappiamo, se sentiamo dei colpi, degli spari subito alla fine del primo capitolo, entriamo subito nel vivo, nella curiosità, nella tensione di sapere che cosa dovrà succedere. Il romanzo è costruito così, tutto in flashback, un caleidoscopio di colori, di storie, di trame, di vicende che, partendo da questo momento, vanno indietro nel tempo e seguono la crescita di Afaf, no? Il momento successivo, il 1976, quindi quando lei è bambina, e lo sviluppo suo e della sua famiglia, di tutte le persone che le ruotano intorno, costruito per decenni alternati al momento in cui poi si ritorna nella scuola, ed è un momento che non è connotato come data, no? Ci sono queste date all'inizio di ogni parte del libro alternate a capitoli, diciamo, chiamati liceo femminile, della scuola senza data. E in questo avanti e indietro nel tempo entriamo nelle storie, in tutto quello che succede a questa famiglia. Fondamentalmente Afaf appartiene a una famiglia di immigrati palestinesi di seconda generazione. Seguiamo la vicenda di questa famiglia e la vicenda sua all'interno della famiglia, tutte le difficoltà, le cose belle e brutte, l'integrazione, la disintegrazione, in cui ogni persona si confronta con un qualche tipo di dramma, di difficoltà. La sua, della ragazza in particolare, è quella di integrarsi nella comunità americana, non solo, ma anche di integrarsi all'interno della sua stessa famiglia, una famiglia di cui, appunto, in questo avanti e indietro seguiamo anche fino alle vicende in Palestina, e si ritrovano, la mamma, i genitori di Afaf si ritrovano in America con già una figlia piccola, che è la sorella di Afaf, ed è un altro dei personaggi chiave del romanzo, perché è un altro degli incubi con cui si confronta sia Afaf che la sua famiglia, cioè la scomparsa di un figlio. E quindi, insomma, seguiamo la sua crescita, le sue vicende nella vita, fino ad arrivare ai primi anni 2000, in cui c'è uno dei più importanti, non dico l'incidente, ma diciamo una delle svolte più importanti è poi l'irrompere della religione, dell'elemento religioso dell'Islam nella famiglia stessa, perché la famiglia è palestinese, sono culturalmente islamici, ma non sono osservanti. Quindi una visione abbastanza chiave del romanzo è proprio lo sguardo, no? Il romanzo si sviluppa, le persone si sviluppano attraverso lo sguardo che hanno sul mondo e che ricevono dal mondo, che riescono ad avere e che non riescono ad avere. Uno dei problemi, delle difficoltà di Afaf nella crescita è quello di non avere lo sguardo della mamma su di sé, perché scompare la sorella e quindi la mamma va in crisi, già è una persona, la mamma con delle sue difficoltà si sente sradicata, lei è nata e cresciuta in Palestina dove desidera sempre ritornare, quindi già è un personaggio difficile, complesso e articolato. La perdita, diciamo, della figlia prediletta, perché è nata in Palestina, la porta a un stato depressivo che poi anche questo si sviluppa in incidenti più o meno significativi e non vede più quello che c'è intorno, quindi non vede più il marito, che a sua volta non vede più lei, però è una persona, invece il papà è molto più equilibrata, più strutturata e più importante anche per poi lo sviluppo di Afaf, la tematica religiosa e tutto quello che accade, e lei, Afaf, la ragazza, nel perdere lo sguardo della mamma deve recuperare lo sguardo di qualcuno, di tutti, e lo fa cercando di integrarsi con gli americani nella maniera più inibita, più, insomma, comportandosi male, cercando di ottenere le attenzioni dei ragazzi in tutti i modi possibili, e questo la fa essere, invece che integrata, sempre meno integrata, sempre più in difficoltà. Cosa chiave quindi, un po' di questo libro è appunto il suo cercare in continuo di appartenere a un qualche tipo di comunità, che sia quella americana o che sia quella delle sue origini, e appunto quella palestinese, quindi un po' questa perdita del senso dell'identità, e tramite il suo percorso noi riusciamo a capire, a comprendere, ad avvicinarci anche per chi magari non ha una conoscenza precisa della comunità araba e musulmana, che cosa vuol dire appunto avere questa identità. Esattamente, infatti questo è, per esempio, chi dice una cosa importante, perché è una delle cose che ci racconta l'autrice nel suo piccolo video di presentazione. Lei dice subito questo: l'obiettivo per me di scrivere questa storia è stato di dare una doppia finestra di visione, di sguardo, di conoscenza, appunto, sia alla mia comunità islamica, immigrati palestinesi a Chicago, negli Stati Uniti, sia a chi non conosce questo mondo, che è un mondo che, sappiamo tutti, è percepito come ostile, minaccioso. Il senso di appartenenza a una comunità è la chiave per raggiungere un equilibrio, ecco. Quindi, però, quello che è importante, che sottolinea la stessa autrice, che viene fuori forte dal romanzo, è che non è così importante la religione, o meglio, o neanche quale religione, sono importanti le radici, è importante conoscere, è importante accogliere, è importante capire. Questo, per esempio, viene fuori nella scena madre che ricorre, che è diluita nel romanzo, del faccia a faccia con l'assassino, che a sua volta è una persona che non ha un senso di appartenenza, cioè lui è un americano, reduce del Vietnam, celebrato, anche lui famiglia che non lo vedeva, che non lo guardava, privo di un senso di appartenenza. Quindi questo è il vero problema, e il vero equilibrio si raggiunge quando questo senso di appartenenza si ritrova, quale che sia la religione, quale che sia la strada. Per Afaf il momento importante è la scelta di abbracciare l'Islam, anche poi la scelta controversa, difficile, di mettere il velo, ma è quello che le porta veramente la pace, è il trovarsi finalmente accolta, il ritrovare finalmente le proprie radici, ed è l'esatto contrario di quello che succede alla persona che commette violenza, che è un americano, che è... commette violenza perché alimentata la sua rabbia, il suo odio verso i musulmani come nemico per eccellenza, dopo i fatti dell'11 settembre, che lui segue, elabora attraverso un po' sovraesposizione ai social, ai gruppi, alle informazioni, a tutto quello che lo porta a alimentare una sua cultura dell'odio completamente chiusa al vedere qualunque altra cosa, no? Questo è una parte importante del libro, mi ripeto, la capacità di vedere o meno l'altro. Un altro approfondimento che troviamo all'interno di questo libro guarda riguarda la cultura culinaria, ma anche quella musicale, sì, appunto della terra di origine dell'autrice, che è, come abbiamo ricordato prima, la Palestina, e tramite un po' quello che le cucina la madre in casa e quello che suona il padre sia in casa che fuori di casa con il suo gruppo. E anche questo fa parte comunque di questo percorso di conoscenza della comunità araba e musulmana che Sara Mustafa vuole farci arrivare. Certo, questa è una parte importantissima del romanzo, la parte che lo rende anche bello, no? Che lo rende anche più vicino, più amichevole, perché sì che c'è il sangue, c'è la violenza, ci sono le difficoltà, ma ci sono anche tutte queste luci, tutti questi colori, tutti questi suoni di un mondo che da molti è poco conosciuto, e per lei è importantissimo, per i palestinesi è importantissimo la cucina, no? Io nel costruire questa sezione anche del sito della casa editrice, questo Ari, le ricette, tutto il lavoro che abbiamo fatto, mi sono imbattuta in testi, fonti e documenti e quant'altro. Una cosa che mi ha colpito, per esempio, è stato leggere interviste a palestinesi, quelli diciamo che vivono la situazione tuttora drammatica, e che loro si sentono, ecco, la Palestina è un luogo che per molti non esiste, per esempio, apro questa parentesi, in America stessa no, non esiste, cioè vengono confuse i pakistani, Betlem, dove è nato Gesù, cioè è un non luogo effettivamente, e loro che la sentono questa cosa, un'intervista con uno di questi agricoltori, non ricordo, dice: per noi non abbiamo controllo sulle nostre vite, non abbiamo più avuto controllo sulla nostra terra, su niente. Uno dei pochi modi per avere il controllo è il modo in cui cuciniamo il cibo, e questo per noi rimane una cosa fondamentale. Evidentemente mamma in questo un po' se lo porta dietro, e per lei il cibo è un riferimento fondamentale, la conosciamo proprio attraverso le sue ricette. E la musica per il papà la stessa cosa, lui lo prendiamo in Palestina, un giovane baba in forma alla cultura musicale grazie a un musicista che lo prende con sé, lui vabbè la sua vicenda personale, dice resta orfano, resta solo, viene come adottato da questo musicista, impara a suonare l'oud, una sorta di liuto, ed è una cosa che si porta sempre dietro, sempre dentro, e che ritorna, risuona, fa parte della sua bellezza, e fa da filo conduttore non solo la musica araba, ma anche la musica americana, la musica anni 70, 80, fino al momento presente. Infatti ci siamo divertiti anche a costruire una playlist di tutto, dagli ABBA, Air, alla musica rock, alle canzoni arabe che arrivano attraverso gli altri membri della famiglia. È uno spaccato di mondo, di mondi, di più mondi che si mescolano, provano a mescolarsi, ci riescono, non ci riescono. Lo scontro grosso, l'evento grosso fa sembrare di no, però invece in realtà poi lo sguardo dell'autrice dice di dirà un'altra cosa. Ecco. Volevo sottolineare solo una cosa, se abbiamo ancora un minuto, che per l'autrice, questo è chiaro nel libro, non c'è solo un Islam, ma sono tanti, perché le comunità che poi paiono come protagonisti o coprotagonisti nella storia non sono solo i palestinesi a Chicago, ma sono gli afghani, ci sono gli slavi bosniaci, il marito di lei, di Afaf, è un rifugiato dalla guerra di Jugoslavia, musulmano anche lui, ma in un altro modo, le donne della sua famiglia sono musulmane in un altro modo, per esempio non portano il velo, ci sono tanti Islam, l'Islam è raccontato e ritratto non privo di criticità, cioè c'è una voce anche obiettiva, che critica di tutte gli aspetti meno belli, meno facili, la violenza familiare, per esempio, lei si confronta nel suo percorso di insegnante, la prevaricazione maschile, l'omertà sulle cose, come dire, sulle azioni malvagie che se commesse in nome del Corano sono giustificate, e lei fa delle affermazioni che sono forti, insomma, ci hanno colpito come un tentativo, ancora una volta, mi ripeto, di avere uno sguardo veramente aperto, veramente che cerca di abbracciare tutto. E non a caso, per esempio, una cosa che ha colpito me nel lavoro è per lei il luogo di pace nella scuola, una stanzetta che nel liceo era un confessionale cattolico, la scuola era un ex convento cattolico, quindi per lei islamica, ormai convinta, anche se non si è convertita alla ricerca di una religione, ma alla ricerca di una pace, di un'appartenenza, però comunque convintamente islamica, trova pace, va a pregare, va a fare le sue preghiere in quello che era stato un confessionale e trova pace guardando l'immagine della Vergine Maria. Sembra proprio che voglia chiudere tutti i cerchi, no? Abbracciare tutto e poter dire va bene, c'è del bene, c'è del male dappertutto, c'è della violenza, c'è della pace dappertutto, l'importante è cercare di capirsi banalmente e di vedersi.